البلاد طردوا الأجداد. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا القانون. Buongiorno Palestina. 169esima trasmissione su Radio Wombat. Sono stati i giovani i protagonisti del no al referendum sulla giustizia ed è contro di essi che il governo ricorre ora a provvedimenti legislativi di chiaro carattere repressivo. Questi sono essenzialmente due. Uno è il pacchetto sicurezza, trasformato in legge pochi giorni fa, e l'altro è il DDL Romeo, che con il pretesto di una lotta ad un antisemitismo di cui vengono gonfiati e snaturati i dati, sono fatti passare ulteriori provvedimenti repressivi, soprattutto nella scuola e nell'università. Dedichiamo quindi parte di questa trasmissione a tre iniziative di contrasto alla repressione. La prima è quella realizzata il 20 aprile presso l'Arci di Firenze sul DDL Romeo, già passato al Senato. Organizzata da Scuole per la Palestina, è stata rivolta soprattutto a docenti e studenti sia universitari che medi. L'iniziativa si avvalsa di contributi di qualità, quali quello dell'avvocato Monteverde e del professor Matteo Giannelli. Ascolterete parte di alcuni interventi. Altra iniziativa che vogliamo segnalare per contrastare la repressione sarà giovedì 7 alle 17 all'Info Point di Piazza Stazione, dove Firenze per la Palestina presenterà il DDL Romeo e si discuterà di antisionismo e repressione con l'avvocato Sauro Poli. Sempre giovedì 7 maggio, ma alle 20, alla Casa del Popolo di Settignano, sempre su questo tema, si terrà un incontro dal titolo «La scuola nel mirino, libertà di apprendimento e di insegnamento in tempi di genocidio». Seguirà una scena palestinese e il dibattito con Antonio Mazzeo e Luca Baccelli. Intendiamo in questa trasmissione dare spazio anche ad un'importante iniziativa svoltasi sabato 18 aprile nella Sala dei 200 di Palazzo Vecchio, su iniziativa della Commissione 7, presieduta da Stefania Collesei e con la collaborazione di Amnesty International Toscana, Ampi Firenze, Arci, CGL Firenze, Cospe Emergency e Oxfam, si è tenuta una conferenza sul diritto internazionale, argomento attualissimo nel momento in cui, tra conflitti mai risolti e nuove guerre, gli strumenti del diritto internazionale e le strutture create a tutela dell'ordine mondiale vengono per la prima volta messi in discussione. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Claudio. Buongiorno, sono Claudio, segnalo articoli pubblicati nell'ultima quindicina. Nel caso che vi interessi leggerli per intero, nel blog di questa trasmissione che vi abbiamo inviato per mail troverete i link per accedervi. Innanzitutto sul 25 aprile. Allora, titolo sul manifesto: Brigata ebraica contro l'ANPI a Milano e scontro sul corteo. La contestazione allo spezzone della Brigata Ebraica è stato più imponente che negli altri anni, fatta più che altro da gente comune, in quanto c'erano non solamente lo striscione della Brigata Ebraica, dell'Associazione 7 Ottobre e di Sinistra per Israele, ma c'erano addirittura bandiere di Israele, che tra l'altro il Comitato Permanente Antifascista aveva chiesto di non portare. A Firenze invece la comunità ebraica non ha partecipato al corteo e ha rispettato lo Shabbat, il sabato ebraico, mentre compagni ebrei hanno partecipato al corteo con cartelli contro Netanyahu. Per passare gli articoli sui siti, cominciamo da Assopace Palestina, titolo: a Tel Aviv e Gerico, israeliani e palestinesi dicono basta durante una cerimonia congiunta per la giornata della memoria dell'Olocausto. È un'iniziativa in cui i parenti delle vittime del 7 ottobre e i sopravvissuti della guerra di Gaza hanno dichiarato: questa realtà non è un destino eterno. Titolo: Cisgiordania. La violenza sessuale è alla base degli sfollamenti palestinesi. Secondo un nuovo rapporto del West Bank Protection Consortium, i coloni israeliani sottopongono i palestinesi a violenze sessuali e altre forme di abuso di genere. I risultati documentano un modello di coercizione che si estende all'interno delle abitazioni, prende di mira le persone e rende impossibile alle famiglie rimanere sul posto. Titolo: un'invasione di ratti affligge i sopravvissuti al genocidio di Gaza. La situazione è davvero spaventosa, ratti e topi sono dovunque. Titolo: scarsa affluenza alle urne nelle prime elezioni palestinesi dopo la guerra di Gaza. Le elezioni comunali in Cisgiordania e a Gaza registrano un'affluenza limitata, mettendo in luce le sfide alla legittimità dell'autorità palestinese che le ha indette. Passiamo ora al sito di Presenza, titolo: se 13 uccisi in un giorno non fanno notizia. Il giorno che ha preceduto le elezioni in Cisgiordania, venerdì 24 aprile, il numero delle vittime dell'aggressione israeliana a Gaza è stato di 13 civili uccisi. In Cisgiordania, poi, le forze di occupazione israeliane hanno preso d'assalto la città di Tuk, a sud-est di Betlemme. Distruzioni e rastrellamenti per tutta la notte, 38 le città e i villaggi palestinesi invasi da truppe e coloni che nella loro ritirata hanno incendiato pollai e serre agricole. In Libano il Ministero della Salute libanese ha annunciato che 6 persone sono rimaste uccise sempre venerdì 24. In seguito ai raid aerei israeliani nel sud del paese, nonostante fosse in vigore il cessate il fuoco, il numero totale delle vittime dal 2 marzo è salito a 2.497 persone uccise in Libano. È un finto cessate il fuoco, per la stessa ammissione del ministro della guerra israeliano Katz, il quale dice: noi siamo lì per restarci. Sotto il Litani, il fiume, non saranno ammessi ritorni di sfollati. Per questo abbiamo distrutto i ponti sul fiume. Nel contempo vengono denunciate razzie e furti da parte di soldati israeliani in Libano, furti che i comandanti non impediscono. Passiamo ora al sito di Zeitun, titolo: le vittime invisibili di Gaza, un'impennata di nati morti e malformazioni congenite. Mentre gli effetti della guerra persistono, Gaza sta assistendo a un aumento senza precedenti di anomalie congenite e a un incremento del 140% dei nati morti. Titolo: da ottobre 2023 Israele ha arrestato in Cisgiordania 1.700 minori palestinesi. Il Centro Palestinese per la Difesa dei Prigionieri ha riferito che Israele da ottobre 2023 ha arrestato 1.700 minori palestinesi nella Giordania occupata illegalmente, oltre ad altre decine a Gaza, con scarse informazioni disponibili riguardo alla sorte dei detenuti. Passiamo ora ad amicizia italo-palestinese. Titolo: Palantir, intelligenza artificiale a Gaza solleva questioni di crimini di guerra. I sistemi di intelligenza artificiale vanno messi a punto e sperimentate, ed è quello che si è fatto a Gaza sulla pelle dei palestinesi, uccisi a famiglie intere già nel 2021 in quella che l'esercito israeliano definì la prima guerra dell'intelligenza artificiale al mondo. Titolo ancora su Palantir. Palantir, allarme per il manifesto e per i contratti nel Regno Unito. In una serie di post, di fatto un manifesto, Palantir sostiene il bisogno di un potere coercitivo che prevalga in un futuro dominato dalle armi e in cui ci si sbarazzi di elettori troppo scomodi e istruiti, spesso donne, che votano prevalentemente per i democratici, dando invece potere ad elettori con formazione professionale, spesso uomini. L'articolo spiega come il sistema di intelligenza artificiale digerisce una enorme quantità di dati sotto forme diverse: fax, comunicazioni telefoniche, dati numerici, informazioni personali, per produrre poi delle decisioni, cioè un bombardamento da fare, una persona da ricattare o da uccidere, un acquisto da fare, persone da arrestare. Ora, questo gigante della sorveglianza tecnologica, Palantir, si sta silenziosamente diffondendo in Europa, infiltrandosi negli ospedali, nei sistemi di polizia e nei nostri servizi pubblici. Titolo: Gli eroi di Israele. Nella celebrazione in pompa magna del giorno dell'indipendenza di Israele, il 21 aprile, è stato insignito del premio di Israele il rabbino Avraham Zarbiv per il suo contributo straordinario alla nazione. Zarbiv, in quanto operatore di un bulldozer corazzato, ha documentato nei suoi video la distruzione di una media di 50 case palestinesi a settimana a Gaza, definendo l'uso del bulldozer un'arte e celebrando il fatto che decine di migliaia di famiglie palestinesi non abbiano più nulla a cui tornare, in quanto, grazie alle sue demolizioni, hanno perduto documenti, foto di infanzia e ogni legame con la propria terra. A questa cerimonia del giorno di indipendenza ha partecipato di persona anche il presidente argentino Milei, il quale ha anche ricevuto la medaglia presidenziale d'onore dallo stesso Isaac Herzog, presidente di Israele. Premiata anche la fondatrice dell'organizzazione Luce per le Famiglie, che gestisce una vera e propria impresa di procreazione artificiale, prelevando, congelando e poi utilizzando lo sperma di soldati morti in guerra, inseminando donne strane che si offrono volontarie per farsi inseminare, portando in grembo bambini destinati a nascere già orfani. Titolo: Niente permessi, niente lavoro, niente futuro. La vita in Cisgiordania distrutta dal divieto di lavoro in Israele. Dopo che Israele ha revocato i permessi di lavoro a oltre 200.000 lavoratori palestinesi, in seguito al 7 ottobre, le famiglie della Cisgiordania stanno spendendo tutti i loro risparmi, saltando pasti e perdendo ogni speranza per il futuro. I pogrom dei coloni israeliani, l'annessione e lo strangolamento economico stanno erodendo la vita palestinese in Cisgiordania, dove Israele ha impedito che si sviluppasse qualunque forma di indipendenza economica, amministrativa e finanziaria. Ultimo annuncio è quello di Mai Indifferenti, Voci Ebraiche per la Pace, che ha postato un annuncio che denota un'attesa, cioè il 30 aprile ci sarà a Tel Aviv un summit promosso dall'associazione Time is Now, cioè che coordinerà la presenza di molti gruppi che promuovono una ricerca di dialogo con i palestinesi. Sarà forse possibile un collegamento in streaming e si tratta di vedere qui quanto l'iniziativa di quest'anno, perché c'è stata anche l'anno scorso un'iniziativa analoga, quanto l'iniziativa di quest'anno sarà in grado e disposta a fare i conti e a presentare una posizione chiara nei confronti di aspetti ormai ineludibili, quali l'imperversare dello squadrismo dei coloni, l'inarrestabile espansione coloniale di Israele, l'uso generalizzato della tortura nelle carceri, la pena di morte reintrodotta solo per i palestinesi. Per oggi è tutto. Come dicevo all'inizio, i link degli articoli segnalati li trovate nel blog di questa trasmissione. Alla prossima! Sala dell'Arci ha ospitato l'assemblea cittadina sul DDL Romeo, organizzata da Scuole per la Palestina. Hanno partecipato all'assemblea l'avvocato Monteverde e il professor Matteo Giannelli. L'avvocato Monteverde ha evidenziato come al documento AIRA nel DDL Romeo venga attribuito un valore giuridico che nemmeno i suoi primi estensori avevano voluto dargli. Nei suoi interventi il professor Matteo Giannelli ha puntualizzato i possibili aspetti di incostituzionalità e le ricadute sul piano amministrativo, come sentirete nella registrazione dei suoi interventi. Ascoltate ora l'intervento del professor Matteo Giannelli. Il testo del disegno di legge del Senato del 1004, Romeo Pirofano Borgesio, che sono però stati poi unificati nelle commissioni del Senato in un unico disegno di legge con tanti altri, 5 o 6 disegni di legge, tra cui uno di Scalfarotto, diversi altri, Del Rio, Scalfarotto, eccetera. Ecco. E va bene. Allora, stiamo al testo. Diciamo che la parte che più mi preme, perché in libro secondo me è lì, dove possono venirci dei pregiudizi come cittadini italiani, possono venirci da questa formulazione, e cioè la formulazione dell'IRA che viene fatta propria dalla legge, dal progetto di legge. In attuazione quindi della risoluzione sulla lotta contro l'antisemitismo 2017 del Parlamento europeo, considerata, ecco, questa è una cosa che va sottolineata, è un elemento di forte differenziazione che si vuole rendere a questa proposta di legge è quello dell'unicità storica del fenomeno e delle sue conseguenze, quello dell'antisemitismo. l'unicità, l'unicità storica. Qui ognuno può dire quello che vuole, ma naturalmente è un elemento che viene rimarcato perché appunto l'esperienza della Shoah nell'età contemporanea non ha molti uguali, non ha molti precedenti e non ha quasi nessun successore se non fino a dopo il 7, dove era 23, cioè successivamente poi abbiamo assistito all'escalation che sapete tutti su Gaza. Ma insomma, ecco, non aveva, ecco, al momento della formulazione di questi, anche di queste definizioni, non aveva precedenti. Quindi questo elemento dell'unicità dell'esperienza della Shoah è una cosa che evidentemente anche il Parlamento europeo si è sentito di sottolineare. Però, dunque, sulla scorta, quindi, in attuazione di questa risoluzione del Parlamento, sulla scorta di questa unità storica del fenomeno e delle sue conseguenze, è adottata la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto, quindi cioè l'IRA, che è stata affermata il 26 maggio 2016. Ora, quindi quello che mancava del tutto a questa definizione di antisemitismo, nonostante i buoni auspici del Parlamento europeo e anche del Consiglio, e che non poteva ottenere senza un atto legislativo italiano, ecco, quella giuridicità che mancava gliela stiamo dando qui. Qui acquista valore giuridico. Che cos'è che acquista valore giuridico? O acquisterà, o acquisterebbe, se ce la fanno. Questa definizione si intende, per antisemitismo, si intende una determinata percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni di natura verbale o fisica sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le loro istituzioni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici. Cos'è che incide o potrebbe incidere negativamente? Perché, cioè, che una legislazione nazionale faccia anche una distinzione fra tutti i razzismi possibili, ma che faccia una distinzione mirata sull'antisemitismo, ci può stare, è accettabile, cioè proprio sulla scorta dell'esperienza della Shoah la posso anche vedere, ma non posso però riconoscere una portata di legalità intrinseca, cioè i limiti di tassatività della disposizione sfumano, non ci sono, non riesco a vederli, perché quando si intende per antisemitismo una determinata percezione degli ebrei che può essere espressa come odio, oppure no, può essere espressa anche come odio, ma potrebbe anche non essere espressa affatto come odio, e allora che cosa mi resta? Si intende una determinata percezione degli ebrei. Di natura verbale o fisica diretta verso le persone. Naturalmente questo ha, cioè, è evidente che crea un campo sterminato di possibilità applicative. Di possibilità applicative che poi la legge, disciplina, porta. Si riportano gli esempi, le strategie, l'eliminazione, ma non è questo l'importante. L'importante è che questo è il punto centrale, l'adozione di questa definizione. Ora, questa definizione può avere delle limitazioni, e ha delle limitazioni. La prima, che ho già detto, è quella che appunto la stessa IRA, continuiamo a chiamarla così, nel redigere questa formulazione della definizione aveva già indicato, attenzione non è giuridica, attenzione non è giuridica, quindi insomma volerla trasformare in un precetto, in un comando giuridico, attenzione, perché una determinata percezione degli ebrei le cui manifestazioni si siano di natura verbale o fisica diretta contro persone ree, insomma, diventa una, trasformato in diritto, diventa appunto una, un prolasso, qualche cosa di veramente non regolato da, da un livello di tassatività tale da consentire un controllo di legalità, da non consentire un controllo di legalità su questa norma. Legalità. E quindi sarà evidentemente una, ora poi capiamo cosa si fa in questi casi, insomma. Quindi il primo, diciamo, la prima limitazione, la prima mitigazione, no, della intravista e possibile giuridicità di questa definizione la dava il suo stesso autore, cioè non è giuridica, quindi attenzione, se la trasformate cercate di, no, vuol dire, se non è giuridica quando la trasformate in diritto, datevi quei tasselli di tassatività che sono indispensabili, datevi quel crisma di legalità che senza il quale una legge non può esistere. Invece a quanto pare siamo di fronte al testo che non lo contiene. Altri elementi di mitigazione li troviamo proprio nella famosa risoluzione del Parlamento europeo, perché è vero che in molte parti di questa risoluzione si parla espressamente di antisemitismo, però ci sono alcuni punti, punto 10, 11, 12 e 14, dove si parla, per esempio, di fornire all'autorità una formazione mirata in merito al contrasto dei reati d'odio e alle discriminazioni, molto più generica. Punto 11, una cooperazione transfrontaliera a tutti i livelli nel perseguimento degli atti d'odio, soprattutto per quanto riguarda il perseguimento degli atti gravi come le attività terroristiche. Intensificare gli sforzi nel punto 12 per garantire che sia posto in essere un sistema esaustivo ed efficiente che consenta di raccogliere sistematicamente i dati affidabili, pertinenti e comparabili sui reati d'odio disaggregati in base alla motivazione, inclusi gli atti di terrorismo. Sulla scuola, dice, la scuola costituisce un'opportunità unica per trasmettere i valori della tolleranza e del rispetto. Quindi non si sbilancia in molte parti questa risoluzione del Parlamento, evidentemente frutto di un compromesso, di un accordo tra le varie componenti del Parlamento, non in tutti i punti si sbilancia. Parla di antisemitismo poi in modo particolare con un riferimento molto specifico, cioè quando parla di antisemitismo questa risoluzione, che appunto raccomanda, invita, adottate, fate qualcosa, ma lo fa sempre con riferimento ai motivi di sicurezza, soprattutto mirati al terrorismo, soprattutto mirati ad attività violente, di terrore, eccetera, no? Invita gli Stati membri al fine di sostenere le autorità giudiziarie e le autorità di contrasto nei loro sforzi volti a identificare e perseguire con maggiore efficienza ed efficacia le aggressioni antisemite, e incoraggia, quindi parliamo di aggressioni, parliamo di aggressioni antisemite, non parliamo di parole in libertà, parliamo di aggressioni, oppure la sicurezza dei cittadini ebrei, la sicurezza, è un valore anche questo, cioè, non voglio vedere un mio concittadino ebreo che piazza per la strada, no? Quindi ecco, dove se ne occupa, dove parla più diffusamente di sionismo, c'è una preoccupazione mirata sulla sicurezza delle comunità, dei cittadini e delle comunità, e in altre parti, come abbiamo visto, non ne parla. Raccomanda, incoraggia gli Stati membri di seguire l'esempio del Regno Unito. Allora sì, adottato proprio puramente semplicemente la definizione dell'IRA, nel Regno Unito e Austria, il Regno Unito, Ma poi per il resto la legge britannica si occupa di monitoraggio e sicurezza, si occupa di contesto istituzionale e si occupa non mi sembra che possa, ecco, che non ricavo che ci sia una, però mi posso sbagliare perché ho visto il riassunto, non mi sembra che ci sia una, che ci siano dei precetti sicuritari, ecco, sicuritari o di divieti di opinione, ecco. Però il Regno Unito, ricordiamoci, è comunque uno Stato che non si è mai rappresentato su questo, perché ricordate anni fa ci fu una condanna importante, un autore, no, negazionista dell'Olocausto, che venne condannato al tribunale, no? Sembrava, è un reato di opinione, no, questo non è proprio, è un fatto di negazione, non è esattamente un reato di opinione. Mi dicevano prima che le linee d'azione per la Strategia Nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, si vuole utilizzare la banca dati di quell'articolo 8 della legge 1 aprile 81 numero 121. Sapete che è questa? È la legge di riforma della Polizia di Stato, che prima si chiamava Pubblica Sicurezza e poi è diventata Polizia di Stato. Questa legge al suo interno conteneva una articolata e importante, valida anche, disciplina delle banche dati di informazione della pubblica sicurezza, cioè della polizia, interne della polizia. Era articolata e anche convincente come disciplina, perché consentiva comunque di portare le informazioni sbagliate, di cui in qualunque modo il cittadino poteva venire a conoscenza, riportare davanti al giudice. Non è che non avete messo lì per un reato che non ha commesso, guardate che mi avete segnalato per una cosa che io sono, non c'entro niente, sono lontanissimo. E il giudice poteva farti dal cuore tutte queste cose, però il fatto stesso di prevedere che le opinioni antisemite, con quell'estensione che abbiamo detto, ora gli ultimi minuti volevo dedicare all'estensione, per capire anch'io, riflettendoci con voi, a che cosa possiamo andare incontro. Ecco, volevo segnalare questo, qui lo mettiamo nella banca dati, nella base dati della polizia, come se fosse appunto qualche cosa da segnalare, ma possiamo segnalare. Ricordiamo il rischio di andare a segnalare delle mele opinioni che per esempio contro le persone. Gli ultimi minuti sono un pochettino di comodo. Allora, la settimana scorsa c'è stata una grande protesta a Manhattan, promossa dalla Jewish Voice of Ortiz, davanti agli uffici di due senatori democratici che votano spesso a favore di tutto quello che chiede Israele, e hanno chiesto a questi due senatori di prendere posizioni meno pedissequee e più pacifiste. C'erano cartelli che invocavano finanziamenti per le persone, non per le bombe, no alla guerra, no ISIS, anche cartelli su Palestina libera, no al fascismo, no al genocidio, finanziate la sanità e non la guerra. Ci sono stati arresti per occupazione del suolo pubblico stradale, ma senza alcuna violenza, perché se capita su un fermo traffico che è più di un tot di ore, alla fine vengono ti portano lì. Quindi molti ebrei di New York sono contrari alla politica di Netanyahu. Un sondaggio condotto a metà marzo dalla Berman Group su 800 lettori ebrei americani evidenzia una spaccatura del mondo ebraico americano. Il 55% si oppone all'azione militare americana contro l'Iran e il 32% lo sostiene. Gli altri non sanno, non rispondono. Un altro sondaggio condotto da High Street parla del 60% degli americani contrario alla guerra e nutre antipatia per Israele, ben il 70% che si oppone agli aiuti incondizionati a Israele. Quindi è in corso un grande cambiamento nella comunità ebraica americana, che rischia di perdere il loro appoggio in caso di distribuzione della guerra. C'è un signore che si chiama Larry Anthony, che è capo analista dei dati della CNN, che raccoglie, incrocia e racconta i dati per i telespettatori sull'intero elettorato americano, democratici e repubblicani. Per le persone con meno di 50 anni la popolarità di Israele era a meno 3 punti nel 2022, nel 2025 è scesa a meno 22, oggi è a meno 47. Fra tutti i risultati americani c'era un più 13 nel 2022, quindi al di sopra e al di sotto dei 50 anni, più 13 nel 2022, meno 8 nel 2025, oggi meno 23 punti. L'Istituto di Rilevazione Gallup ha rilevato che nel 2022 gli americani che simpatizzavano con Israele superavano di 28 punti quelli che simpatizzavano per i palestinesi. Oggi la situazione è ribaltata e sono i palestinesi in vantaggio di 11 punti, si tratta di 39 punti di differenza, un'enormità. Netanyahu è passato da più 9 nel 2024 a meno 23 di oggi, perde 32 punti. Quindi oggi tutti i politici, per tutti i politici potrebbe essere un problema anche agli israeliani, dando una sensazione negativa che si è fermata in questo paese, negli Stati Uniti. Ora, se noi in Italia dovessimo appunto scendere in piazza, manifestare, se questa legge fosse approvata, noi scendessimo in piazza, manifestare, non contro gli ebrei, ma contro la politica attuale dello Stato di Israele, potremmo incorrere forse in i rigori della legge, essere inseriti nella banca dati della polizia e forse essere anche stigmatizzati pubblicamente per quello che diciamo pensiamo. Se addirittura non si pensa di attaccare a questa roba addirittura dei reali, però ecco, se questa è la strada, questo va detto, cioè non è che siamo qui, agiscono di contro i limiti a questo punto. Ovviamente che se fossimo davvero di fronte a reati di opinione, allora ogni giudice di questa Repubblica Democratica, soprattutto quello di trasmissimento che hanno avuto con il governo, diciamo che si sentirebbe un po' tenuto a leggere queste disposizioni per estrarre la norma compatibile con la Costituzione. In questo consiste l'attività di interpretazione della legge, non soltanto leggere i testi, ma estrarre dalla disposizione, estrarre la norma giuridica, che sono in certi po' diversi. La norma giuridica afferma il diritto, la legge afferma l'autorità del legislatore, che però si svanisce subito perché deve raffrontarsi con tutto l'altro sistema multilivello di disposizioni superiori che condizionano appunto l'interpretazione dell'interprete. Quindi anche se arrivasse un reato di opinione ispirato da queste disposizioni, andrebbe letto come minimo con una interpretazione costituzionalmente orientata, proprio per non cadere in un reato di opinione. La Costituzione italiana vieta i reati di opinione, e quindi credo che da questo punto di vista ci sarà comunque una certa protezione anche giuridica, senza contare la possibilità di rimettere direttamente la questione al giudice delle leggi. Avete ascoltato l'intervento del professor Matteo Giannelli. Thank you. conduciamo ora alla conferenza del 18 aprile in Palazzo Vecchio. Ritengo che sia opportuna, anzi necessaria, una riflessione sullo stato dell'arte del diritto internazionale in questa fase storica, dichiara la Presidente della Commissione 7, Stefania Colsei. Fase nella quale gli organismi internazionali si trovano in difficoltà a far rispettare le regole che il mondo si è dato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, consapevoli che la forza del diritto è l'unica alternativa alla legge del più forte, dobbiamo quindi salvaguardarlo e rilanciarlo. Alla conferenza sono intervenuti i relatori Pasquale Ferrara, ambasciatore docente di diplomazia e negoziato alla LUIS, con l'intervento su diplomazia e disordine internazionale, Micaela Frulli, professoressa ordinaria di diritto internazionale all'Università di Firenze, con la relazione Il diritto internazionale sotto tensione. A seguire Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, con Sudan, 3 anni di crimini internazionali. Stephen Margetz, direttore degli affari legali dell'UNRWA, con oltre 25 anni di esperienza presso le Nazioni Unite. E Carlotta Sami Senior, advisor presso la divisione di relazioni esterne della UNHCR di Ginevra, che ha parlato del sistema umanitario internazionale in crisi, un'analisi critica tra mandati, risorse e legittimità. Per ultimo, ma non ultimo, Gennaro Giudetti, operatore umanitario, con la sua testimonianza dal titolo Violazione del diritto internazionale, esperienza direttamente dal campo. Vi faremo ascoltare alcune parti di interventi particolarmente significativi e in particolare la testimonianza dell'operatore sanitario Gennaro Giudetti a Gaza. A Gaza non c'entri più. Così, senza spiegazioni, è stata negata l'entrata nella striscia a Gennaro Giudetti, operatore umanitario delle Nazioni Unite, con un semplice denied segnato in rosso accanto al suo nome. Espulso senza appello mentre stava svolgendo una missione ufficiale dell'ONU. Come lui, anche il capo medico, il capo della sicurezza e il responsabile dell'ufficio. Tutti esclusi da Israele. Ascoltiamo il suo intervento. Sì, buongiorno. Grazie mille per l'invito, per la possibilità di essere qui per poter raccontare. Grazie che state ancora resistendo dopo tutte queste ore. Allora, io sono Gennaro Giudetti, sono un operatore umanitario. Sono uno dei tanti che è stato espulso dalla striscia di Gaza, nel senso che appunto noi per entrare nella striscia di Gaza, nonostante avevamo mandato ONU, io ero lì con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, si chiede il permesso a Israele per entrare e uscire. Noi ogni circa 5-6 settimane uscivamo dalla striscia una settimana per ricaricarci fondamentalmente, per dormire, portare il cibo, perché il cibo non c'era nemmeno per noi nella striscia di Gaza, quindi riuscivamo a recuperare un po' di cibo e rientrare nella striscia per continuare un altro turno da 5-6 settimane. Nell'ultimo turno che sono stato a Gaza, quindi uscendo e poi facendo la richiesta a Israele per rientrare, mi è stata mandata un'email, ma non ero io l'unico, sono stati tantissimi operatori umanitari e che abbiamo avuto il diniego, cioè ci arriva un'email, tra l'altro senza spiegazioni, con scritto denied. Questo perché, appunto, ripetiamo, la stampa internazionale non può entrare a Gaza, gli unici, diciamo, testimoni internazionali, perché poi i palestinesi non vengono ascoltati o spesso non creduti, no, per quello che raccontano, quindi siamo noi gli unici operatori umanitari internazionali che raccontiamo sul campo quello che vediamo. Anche qui c'è un dilemma, un bivio etico-morale, perché lì noi siamo operatori umanitari, non siamo agenzie stampe, però in questo momento, in questa situazione storica a Gaza, dove la stampa internazionale non può entrare, se non lo facevamo noi come occhio esterno, diciamo così, non c'era nessun altro che lo poteva fare. E quindi io mi sono anche domandato, no, io che posso fare davanti a tutto quello che sta accadendo, soprattutto in Italia, perché dicevo, cioè anche i miei colleghi dicevano, ma la gente si può informare sui siti internazionali. In Italia purtroppo abbiamo per cultura, abitudine, la gente si informa solo su piattaforme italiane, in lingua italiana. Allora ho detto, se non lo faccio io o qualcun altro, diciamo operatore umanitario italiano, tante informazioni arrivano in Italia soprattutto in maniera distorta. Cioè il NATO, perché dicevo, non è giusto quello che si sta raccontando in Italia di quello che sta avvenendo a Gaza, allora lo raccontiamo noi, prendendomi dei rischi, appunto, i rischi sono stati la espulsione della striscia di Gaza. Però vedete, fra 10, 15, 20 anni quello che sta accadendo a Gaza uscirà sui libri di storia, no? E qualcuno, e soprattutto le future generazioni, ci chiederanno conto, sia a me ma anche a tutti voi che siete qua, no? Gennaro, ma cosa avete fatto per denunciare, limitare, bloccare quello che sta accadendo? È una risposta sia io ma anche tutti voi la dobbiamo dare per forza alle future generazioni. E quindi ho deciso di raccontare. Vedete, io sono stato a Gaza nel 2024 due mesi con la FAO e nel 2025 sette mesi con l'OMS, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ora, non era per me la mia prima esperienza a Gaza, nel senso che io erano 15 anni che faccio l'operatore umanitario, soprattutto in zone di guerra, dalla Siria allo Yemen, all'Afghanistan, al Congo, Repubblica Centrafricana, Haiti. Questo non per fare così un curriculum, però è per dirvi che non è la mia prima esperienza a Gaza, ok? Venivo già da tante altre esperienze, da emergenze umanitarie del mondo. Però se devo sommare i 14 anni di mia esperienza passati, tutti insieme non arrivano ai 9 mesi che ho fatto a Gaza. Vedete, Gaza, quello che voi avete visto su Gaza è solo una piccola parte, ed è la parte che si può trasmettere, raccontare sui social, in TV, e che si può raccontare, perché l'altra 50%, diciamo così, di Gaza non si può raccontare, non si può raccontare perché è troppo. Vedete, un termine che io dico sempre per Gaza, anche con i miei colleghi che si incontrano, poi ci incontriamo sempre nelle varie missioni di emergenza, è too much. Cioè Gaza è troppo, troppo per qualsiasi essere umano. Cioè dicevamo con i miei colleghi, Gaza è stata la mia prima missione dove io ho pianto, non solo io ma tanti operatori umanitari hanno pianto, perché rimanere lucidi, fermi, vedete, io lavoravo negli ospedali, no? Ed è stata la prima volta, cioè, vi giuro, non è facile nemmeno raccontarlo, si cerca di essere sempre lucidi, però entrare in quegli ospedali era veramente trattenere le lacrime, dal primo momento che si entra in quegli ospedali a quando si usciva da quegli ospedali, perché non so come dire, anche il raccontare, come fai a mettere una telecamera in faccia magari a un bambino che è appena arrivato, che ha perso i genitori, che sta là che gridare, o a una mamma? Di scene, di situazioni negli ospedali ne abbiamo viste tante, troppo crude e troppo dure, che a volte si fa anche fatica a raccontare, ma è la realtà di Gaza, cioè quella realtà che non è arrivata qua sui nostri telegiornali, giornali. Vedete, negli ospedali ho visto delle scene assurde, ve ne racconto due, sono un po' dure, però per farvi veramente entrare nella realtà di Gaza, anche per smuovere un po' le coscienze. Una volta è arrivato in ospedale una macchina con il cofano aperto, e dentro questa macchina c'era un bambino che era praticamente pieno di sangue e ancora di macerie, quindi era tutto sporco di polvere, quindi era stato estratto da un palazzo bombardato. L'hanno rimosso, diciamo, dal cofano di questa macchina, l'hanno messo sulla barella, aveva lo sguardo perso, cioè non riusciva a parlare, niente, era proprio ghiacciato questo bambino, e continuava a perdere sangue, e il paramedico era lì e ha detto dobbiamo levare subito tutti i vestiti che ha addosso, perché aveva ancora i calcinacci addosso insieme a lui. Gli hanno levato, e noi cercavamo di capire cosa potevamo fare, gli hanno levato i vestiti che aveva addosso, e hanno cercato di rimuovere un po' di pietra, un po' di polvere che aveva addosso, perché continuava a perdere sangue dal ginocchio, dalle braccia, dalla faccia, perché era pieno, era stato estratto, e aveva in mano un paio di scarpette, erano piccoline ed erano anche quelle tutte insanguinate. Il paramedico orale ha detto devi levare tutto perché dobbiamo entrare direttamente in sala operatoria, stavano giù allertando la sala operatoria. Il bambino, appena gli hanno provato a levare queste scarpe, ha parlato e ha detto vi prego non mi levate le scarpette che sono di mia sorella, che è l'ultima e l'unica cosa che mi è rimasta della mia famiglia, il resto ho perso tutto sotto i bombardamenti. Vedete, quando un bambino dice una cosa del genere dovremmo domandarci tutti dove siamo, dove eravamo, perché abbiamo fallito un po' tutti quanti, cioè l'umanità è morta a Gaza, è morta anche l'infanzia, quella che abbiamo sempre protetto e difeso, no? Vedete, un altro caso, per dirvi come le situazioni sono veramente dure a Gaza, che si fa fatica a raccontare, so che a volte le persone si impressionano, però è la realtà a Gaza. Sempre in questi giorni che ero a Gaza, e stavo nel corridoio dell'ospedale, vedevamo questo signore che vagava e gridava, uno di questi giorni che cercavamo, perché avevano tagliato l'acqua e l'elettricità, quindi ero complicato per noi fornire elettricità e acqua, perché non c'era nemmeno il fuel, il carburante. Vedevamo questo signore che correva nei corridoi e aveva in mano, sembrava tipo una pietra, un qualcosa, una pietra, e cercavamo di capire dove stava andando, perché gridava il nome di una donna che abbiamo collegato, che era la moglie, e cercava nella zona dove stavano tutte le body bag, perché anche lì la sala mortuaria era piena, non c'era più spazio per le body bag, sono quei sacchi bianchi di plastica dove mettono i cadaveri. E quindi questo andava in giro a cercare le body bag e le apriva, quindi noi diciamo ma che sta facendo questo, sta aprendo le body bag, e poi dentro le body bag molti avevano il lenzuolo, quindi non è che vedevi le persone che stanno dentro, e gridava disperato nei corridoi cercando di trovare qualcuno. Ci siamo avvicinati a questo signore per capire cosa volesse, perché gli infermieri medici erano tutti occupati. Cioè, immaginate un ospedale che può accogliere, non lo so, dico 100 persone e te ne arrivano 3.000. Immaginate che a Gaza hanno dovuto invertire il triage, per la prima volta si è trovato, i dottori, i medici erano costretti a fare il triage al contrario, cioè tutti i codici rossi venivano lasciati morire perché non c'era né tempo e nemmeno materiale medico a disposizione per rispondere a quell'emergenza, si curavano solo i casi medio-gravi, i casi, diciamo, i codici gialli, come li chiamiamo noi. Ci avviciniamo a quest'uomo per cercare di capire cosa stava cercando. Io volevo morire, questo aveva in mano la testa della figlia che l'aveva estratta dalle macerie, è rimasta solo la testa, e stava cercando il corpo della moglie nei sacchi, perché dice: io voglio lasciare almeno nello stesso sacco la testa di mia figlia piccolina, morta da questo bombardamento, lasciarla nello stesso sacco di mia moglie e dare degna sepoltura a entrambi. Come fai a essere lucido davanti a una roba del genere? Perché vedete, i 70.000 morti che ci hanno detto, questi, ricordiamoci, sono i morti fisicamente recuperati, che non sono i morti di Gaza, sono quelli recuperati fisicamente dalle macerie. Vedete, quando bombardavano, perché bombardavano soprattutto di notte, da mezzanotte alle tre, era il periodo che non riuscivi, il momento che tu non riuscivi a dormire. In questo momento bombardavano perché non volevano far dormire le persone e perché le abitazioni, diciamo, erano più, diciamo, con più gente, non so come dire. E quando bombardavano, Israele vietava l'utilizzo degli scavatori, delle ruspe, quindi la gente veniva estratta solo a mani nude. Ora immaginate un palazzo di 7, 8, 10 piani, anche di 5, quando crolla tutto su se stesso, tu riesci a recuperare da sotto le macerie quelle degli ultimi piani, dell'ultimo piano, perché il lastre di cemento armato non riesce a estrarle o a spostarle a mani nude. Quindi là sotto ci sono ancora migliaia e migliaia di persone. Vedete, solo l'esercito israeliano, l'esercito che non ha nessun interesse, l'esercito israeliano, a gonfiare questi numeri, dice che ci sono almeno 220.000 morti, che forse sono anche di più, però per dirvi quando i numeri sono tantissimi. E in tanti di questi palazzi crollati ci sono delle scritte, io ho provato qui a chiedere ai miei colleghi: ma che c'è scritto là? E dicevano: là c'è scritto, non vi dimenticate che qua sotto ci sono ancora i corpi di mia mamma, di mio papà, di mio figlio, di mio fratello, perché giacciono ancora là sotto e non si riescono a recuperare. Se guardate, come Organizzazione Mondiale della Sanità andavamo a evacuare gli ospedali, o prima del bombardamento se riuscivamo ad intercettarlo, o dopo. Entrare in questi ospedali bombardati, che magari non riuscivamo ad entrare per settimane, l'odore di cadavere che era là dentro, era una situazione che non avevo mai sentito prima d'ora. Perché tanti di queste ali degli ospedali bombardati non li puoi più andare a recuperare o estrarre, e quindi c'è ancora gente là sotto che è morta e non si può più recuperare. Vedete, quando vi dico che a Gaza abbiamo fallito tutti, perché chi ha pagato il prezzo più alto a Gaza sono soprattutto i bambini, ma non per una questione pietistica, diciamo così, per i bambini, no, perché il 70% della popolazione a Gaza ha meno di 18 anni. A Gaza c'è il più alto numero di bambini amputati e mutilati al mondo. Vedete, ci hanno abituato a disumanizzare i bambini chiamandoli scudi umani, human shield. La comunicazione ha funzionato a Gaza, hanno iniziato a chiamare effetti collaterali. Definisci il bambino, diceva qualcuno, nella sua assurdità aveva ragione, perché per la dottrina militare non esistono civili a Gaza, sono tutti target che vanno neutralizzati, e quindi è più facile disumanizzare i bambini, perché dire scudi umani, effetti collaterali, è più facile. Qua anche la stampa internazionale ha le proprie colpe, perché leggere palazzo esploso a Gaza, palazzo crollato a Gaza, che vuol dire crollato? Che c'è stata una fuga di gas, come fa a crollare un palazzo a Gaza? Qualcuno l'avrà bombardato. Vedete, il diritto internazionale l'hanno violato su tutti i campi, cioè a Gaza si parla di genocidio, si parla di ecocidio, cioè quasi l'oltre 90% dei terreni agricoli è incoltivabile. Cioè, la cosa che a me ha fatto impressione a Gaza, eppure vi dico, sono entrato in altri territori di guerra, è il grado di distruzione e l'odio. Vi dico del grado di distruzione perché non hanno lasciato nulla in piedi a Gaza, non hanno risparmiato nulla, cioè hanno distrutto strade, acquedotti, quei pochi ponti che c'erano a disposizione, le rovine romane, hanno distrutto la terra agricola, gli alberi, le tubature delle fogne, i palazzi, le scuole, l'università, non hanno lasciato nulla in piedi al caso. Vedete, a Gaza si parla anche di health side, cioè per la prima volta nella storia si è avuta la necessità di creare un termine tecnico che non esiste nemmeno in italiano. Health side sarebbe tipo saniticidio, non esiste, sarebbe l'attacco mirato alle strutture ospedaliere e al personale medico alle ambulanze, a tutto ciò che è il sistema, diciamo, il comparto sanitario a Gaza, perché hanno distrutto completamente tutto. Ci sono 36 ospedali a Gaza, ne hanno distrutti o comunque parzialmente distrutti 32, non uno, 32. 32. Questi sono i numeri che sono a Gaza. Vedete, la cosa che a me faceva anche, diciamo, sofferenza a Gaza, ma cioè, è la sofferenza dei bambini. Quando vi dico questo, perché vedete, a Gaza i bambini nel corso dei mesi hanno iniziato a cambiare le richieste, perché all'inizio iniziavano a chiedere alle organizzazioni umanitarie, no, dei pennarelli, dei fogli per colorare, per disegnare. Nel corso dei mesi, soprattutto quando è arrivato l'inverno, faceva freddo e io, che avevo una casa comunque che era un blocco di cemento, dormivo ed era comunque una casa chiusa, la notte dormivo con le bottiglie di plastica, quelle dell'acqua che le riscaldavo con l'acqua calda per dormire abbracciate, perché faceva veramente freddo, e dormivo con tipo 3 coperte. La gente la dormiva nelle tende, perché l'80% delle abitazioni sono distrutte, la quasi totalità della gente vive in spiaggia nelle tende, ok? E i bambini iniziavano a chiederci dei vestiti perché erano bagnati fradici, e andare a dormire così faceva veramente freddo e morivano realmente di freddo. Allora hanno iniziato a chiederci i vestiti. Vedete, nell'ultimo periodo a Gaza, i bambini, perché c'era anche un altissimo numero di questi bambini che erano orfani e mutilati, hanno iniziato a chiederci di morire, ma lo chiedevano in una maniera lucida, dire: noi siamo stanchi di questo mondo, vogliamo vivere nell'aldilà perché vogliamo raggiungere i nostri genitori e siamo stanchi di soffrire. Vedete, quando i bambini chiedono di morire espressamente, vuol dire che abbiamo fallito tutti nuovamente. Vi dico questo perché il diritto internazionale è stato violato, come dicevo prima, ovunque, anche con noi operatori umanitari internazionali. Io ho perso colleghi, ho perso amici internazionali come me. 3 giorni fa hanno ucciso il mio autista di quando io ero a Gaza, un autista dell'OMS, tra l'altro in missione per un'evacuazione medica autorizzata da Israele, dove tu con Israele autorizzi il tragitto, le persone che stanno in macchina dal punto A al punto B. È stato autorizzato da Israele, sono arrivati al punto B e hanno sparato in la macchina. Fortunatamente gli altri 3 che erano in macchina si sono salvati, un'evacuazione medica. L'autista è morto. Sono stati uccisi anche operatori umanitari internazionali. Il mio collega di un'altra agenzia ONU, il 19 marzo, anzi il 18, avevano bombardato l'ingresso della nostra casa, che è la casa come la mia, attenzione, erano tutte case uguali, diciamo a blocchi delle Nazioni Unite. Hanno bombardato l'ingresso e lei è stato il primo allarme, ha detto: Israele, vedete che avete appena bombardato una casa delle Nazioni Unite. C'è stato un errore, ci siamo sbagliati, è impossibile, non vi preoccupate. Questo è il giorno prima, il 2 giorni prima. Il 19 marzo ribombardano di nuovo quella casa con un carro armato. Vedete, quando un carro armato prende la mira, fai fatica a dire che c'è uno sbaglio, un errore, perché là la canna ti sta mirando. Mirano alla casa dei nostri colleghi internazionali, uno è morto, un internazionale, un bulgaro, e un altro ha perso le gambe. Ed è stata motivata questa cosa come: era un target militare dietro questa casa e ci siamo sbagliati. Cosa vuol dire ci siamo sbagliati? Vedete che Israele fa fatica a sbagliarsi, perché quando vuole i target li sa prendere. Vedete, una volta al Nasser Hospital, l'ospedale al sud della striscia di Gaza, c'era un target militare in un reparto e non potevano bombardare tutto l'ospedale perché nel Nasser Hospital ci sono tanti internazionali che lavorano. Cioè sono usciti con un bombardamento preciso, hanno lanciato tipo un missile, un missile guidato, che è entrato dalla finestra dell'ospedale, passando tipo nel corridoio dell'ospedale, è entrato dentro alla stanza dove c'era questa persona, questo target da neutralizzare, e ha disintegrato il letto, ha creato un buco per terra, e le persone che erano a fianco non si sono nemmeno sporcati quasi. Quindi quando vogliono loro sanno benissimo come riescono ad attaccare o non attaccare. Ora, dal 19 marzo, il 21 luglio, sono arrivati a noi, alla nostra struttura, alla mia casa. Ci hanno chiamato Israele dicendo: Gennaro e ai miei colleghi, rimanete a casa che è tutto ok. C'è arrivato un ordine di evacuazione. Israele ha preso la mappa, la striscia di Gaza, l'ha divisa in tanti quadratini, e ogni giorno dice, li ha numerati, sono dei quadratini tipo da 1 a 300, e ogni giorno dice: il quadratino 1, 2, 3 devono evacuare. Ma ora non è che ti dicono vai nel quadratino 5 che è tutto ok, sei salvo, no, loro stanno dicendo che l'1, 2, 3 stiamo per radar al suolo, dove vai a noi non ci interessa perché tanto continueremo a bombardare. Per quello la gente dopo 16, 17, 20 volte che evacuava da una parte a un'altra era stanca, tanto dicevano andiamo lì e ci bombardate di nuovo, rimaniamo qui e rischiamo. Quindi cos'è successo? Che quel giorno ci chiama Israele dicendo: il vostro quadratino dove state deve essere evacuato, stiamo per bombardare, ma voi rimanete a casa che è tutto ok, le ultime parole famose. Era di sera, a un certo punto vediamo esplodere le finestre di casa e la porta, c'era il fumo, abbiamo detto non possiamo più stare in casa, perché poi ci cadevano addosso i calcinacci delle abitazioni vicino, ma anche tipo a 100 metri, perché esplodevano all'aria questi palazzi. e i calcinacci volavano per centinaia di metri. Abbiamo detto: non possiamo più stare in casa perché stiamo rischiando di morire. Ci siamo messi in macchina, siamo scappati in ufficio. L'ufficio è a 500 metri da casa, non era lontano. Nella strada per andare in ufficio sembrava una scena apocalittica, cioè cadevano i missili praticamente, noi vediamo queste strisce rosse o di fuoco, che cadevano giusto lateralmente a noi, il fumo non riuscivamo a vedere per guidare, tant'è che io ho sfondato la parete di una casa perché non vedevamo nulla, c'era tutto fumo, bruciavano tutti questi campi profughi, io ho detto noi qua moriamo nel tragitto sicuro, cioè, non arriviamo nemmeno più lì. Siamo arrivati in ufficio, siamo arrivati in 50 perché tutti gli altri nostri colleghi sono scappati dalle varie abitazioni. Siamo arrivati tutti in ufficio, eravamo in 50 a dormire lì. Dopo un'ora che siamo arrivati, un missile è arrivato in casa mia e io ho perso tutto. Hanno raso al suolo la prima abitazione di casa mia. Non avevo più nulla. E le ultime parole famose di Israele era: rimani a casa che è tutto ok. Non si sono fermati qui, vedete, per quello quando uno parla di violazione dei diritti internazionali, perché ci sono delle prove, non è che uno si alza la mattina e si inventa queste cose. L'hanno fatto, noi avevamo il più grosso magazzino dove avevamo farmaci, medicine salvavita che distribuivamo in tutta la striscia di Gaza, il più grosso hub umanitario medico nella striscia di Gaza. Noi davamo medicine a Medici Senza Frontiere, a Emergency, Save the Children, UNICEF, gli ospedali dentro la striscia di Gaza. Tutti questi ospedali fornivamo medicine, avevamo un enorme hub. Israele che fa? Lancia un primo missile sul tetto dell'abitazione di questo magazzino e ci distrugge il tetto. Chiamiamo Israele, Israele vede che hai appena bombardato il nostro magazzino. Questo è un crimine di guerra, fermati finché sei in tempo perché fortunatamente non è andato a fuoco nulla. No, c'è stato un errore, è impossibile, informiamo subito l'equipe di terra, non vi preoccupate, ci fermiamo qui. Mentre Israele, come vi siete sbagliati? Sapete benissimo che quella struttura è nostra, ci sono le bandiere, avete le coordinate GPS, non vi preoccupate, è tutto ok. Dopo un'ora e mezza un missile entra dal buco che aveva creato nel tetto del magazzino. Questo drone va per colpire il generatore, perché il generatore forniva elettricità al magazzino e ai frigoriferi. Ok? Va per esplodere sul frigorifero e fortunatamente il drone però prende fuoco, ma non fa prendere fuoco, diciamo, tutto il magazzino. Di nuovo richiamiamo Israele. Israele per la seconda volta hai bombardato il nostro magazzino. Questo è un crimine di guerra, fermati finché sei in tempo, perché rischiamo di perdere tutto quello che abbiamo dentro. No, no, ma c'è stato un errore, davvero, ci siamo sbagliati, non è possibile. Va bene. Dopo un'altra ora e mezza entra un drone molto più grosso con più carica di esplosiva, va per colpire il generatore prende fuoco, esplode e vanno in fumo 10 milioni di euro di farmaci, oltre 3.000 metri quadri di magazzino pieno di medicine e farmaci salvavite. Questo, che volete o no, si chiama crimine di guerra. Vedete, quando dico che Israele è andato troppo oltre, è l'odio che mi ha fatto paura a Gaza, perché io dico: tu cecchino israeliano, ok? Che vedi quel bambino che cammina per strada, perché poi arrivavano negli ospedali dove noi lavoravamo e supportavamo, quindi avevamo un sacco di colleghi, dicevano: Gennaro, ci arrivano decine e decine di bambini di 3, 4, 5 anni, 3, 4, 5 anni che sono stati sparati alla testa dai cecchini israeliani o al petto. Ora io dico: tu cecchino israeliano, che prendi la mira un bambino di 3, 4, 5 anni, quello che c'entra con Hamas, che c'entra con Gaza, e gli fa esplodere la testa, sei andato troppo oltre, cioè non lo vedi più nemmeno come umano. L'ingresso degli aiuti umanitari, ci hanno convinto che a Gaza non c'è la fame, ce l'hanno detto tante volte, quella era una bugia, ma l'hanno ripetuto così tante volte che è diventata una verità: a Gaza non c'è la fame, a Gaza non c'è la fame, nonostante tutte le organizzazioni umanitarie, tutte insieme dicevano: a Gaza si è raggiunto il livello 5 della scala IPC, della scala di malnutrizione a Gaza, si è raggiunto il livello massimo di carestia, e tutti quanti ci provavano a convincere: no, ma a Gaza non c'è la fame. Vedete, io lavoravo nel far entrare gli aiuti umanitari. A Gaza non facevano entrare l'anestesia, cioè i bambini morivano dal forte dolore durante le operazioni, non facevano entrare gli antidolorifici, non facevano entrare le stampelle, le sedie a rotelle, le protesi. Mi spiegate che c'entra la protesi con la guerra a Hamas? Vedete, perché non facevano entrare le protesi, i dottori, per dare stabilità e equilibrio ai bambini, utilizzavano i tubi di plastica, quelli dei lavandini, delle tubature, perché non c'erano modalità per dare stabilità a questi bambini. Non facevano entrare il latte in polvere, si chiama cibo terapeutico, quello 0-3 mesi, il latte in polvere 0-3 mesi. Che c'entra questo con Hamas, il latte in polvere 0-3 mesi? Non facevano entrare il plumpinat, oppure facevano entrare pochissime quantità. Il plumpinat è questo burro di arachidi che serve per la malnutrizione, per lottare contro la malnutrizione. Non facevano entrare nemmeno quello. Vedete, a Gaza non facevano nemmeno entrare gli assorbenti, le donne erano costrette all'inizio a tagliare in due gli assorbenti e poi chiedevano degli stracci di cotone perché non avevano gli assorbenti. Tutto ciò cosa c'entra con Hamas? Nulla. Questo per dirvi cosa, che loro sono andati troppo oltre. Perché anche nelle guerre più assurde, no? Quelle più tra le peggiori guerre che comunque ho vissuto in altri contesti di guerra, il diritto internazionale, bene o male, era, diciamo, il nostro quadro dove noi riuscivamo a lavorare, a operare e venivamo protetti e tutelati. Io come operatore umanitario internazionale, prima come agenzia ONU, ma anche quando ho lavorato con Medici Senza Frontiere o con altre ONG, mi sentivo protetto e tutelato, perché comunque tutti ci riconoscevano come neutrali e a supporto della popolazione civile, e quindi non ci hanno mai toccato. Questo a Gaza è saltato anche questo rapporto di fiducia che avevamo, perché fino alla guerra in Ucraina noi eravamo gli eroi, gli angeli, nessuno tocchi gli operatori umanitari, fanno un lavoro straordinario nelle guerre, nessuno deve toccarli. A Gaza questo, diciamo, rapporto si è staccato. Allora, per concludere, io quello che mi sono domandato a Gaza, che è stato un po', diciamo, ci siamo sentiti abbandonati, perché siamo stati calati nell'inferno di Gaza, però poi la corda ce l'hanno tagliata, ci hanno lasciato lì, ci hanno abbandonato. Non ci hanno creduto, non ci hanno ascoltato, nonostante ogni giorno facevamo gli appelli di denuncia di quello che vedevamo a Gaza. Ci hanno quasi addirittura anche definito antisemiti o pro-PAL. Che c'entra pro-PAL? Mica, non mi hanno mai chiamato pro-Haiti, pro-Sudan, pro-Congo, pro-Ruanda. Perché pro-PAL? Cioè, perché le agenzie ONU, Medici Senza Frontiere, Save the Children, Emergency, tutte queste organizzazioni che lavorano da anni ovunque nel mondo, perché adesso pro-PAL? Perché era più facile poi discreditare e delegittimare. Allora io mi chiedo, quello che abbiamo difeso fino adesso, per concludere, forse non era il diritto umanitario, non era il diritto umano, perché vedete, come diceva anche qualcuno, il diritto è come la magia, funziona se tutti ci crediamo, altrimenti non funziona. Allora forse come Unione Europea, no? Che ci siamo sempre paladini della giustizia, culla, civiltà, dei diritti umani, forse quelli che abbiamo difeso fino adesso non si chiamano diritti umani, non è il diritto umanitario internazionale, forse quello che abbiamo difeso è tutelato e protetto fino adesso, si chiamano privilegi da bianchi europei occidentali. Grazie. Avete ascoltato la testimonianza di Domenico Guidetti, operatore sanitario ONU a Gaza. Prima di chiudere questa trasmissione, vi vogliamo segnalare quest'altra iniziativa che sarà domani, 30 aprile, nell'ambito del seminario Le novità dell'antropologia, primavera 2026, alle ore 17 nell'aula 8 di via Gino Capponi 9 presso l'Università di Firenze sarà presentato un percorso visivo fra frammenti di cinema palestinese e riflessioni antropologiche su trauma storico, rappresentazioni e resistenza a partire dal recente libro dal titolo Cinema Palestina di Maria Elena Marabotto Petruzzelli. Ne discuteranno insieme all'autrice Francesco Zanotelli, Antropologia Pubblica, Università di Firenze, Silvia Lelli, Antropologia Visiva, Università di Siena, Zoran Lapov, Pedagogia Interculturale, Università di Firenze, Sirin Elderbach, studentessa UNIFI e rappresentante dei giovani palestinesi. Sarà presente l'autrice. Il seminario è parte delle attività culturali del Dipartimento SAGAS e organizzato in collaborazione con Antropologi per la Palestina. Ed era questa la nostra ultima notizia, e con questa ci salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo 13 maggio, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah. La la la la.